That's the tale of the dragon. That's not the stupid lie. He likes a game, and he can save you. Believe in me. Behold the human who that night deployed into a queen of flame. The sword of one is very dangerous. It's hard to find faithful Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, e lo ricordo, stasera ospiti Trick or Treat. Con voi e con loro ascolteremo 6 brani del disco Teen Soldiers, come ad esempio il primo ascoltato. Titolo? Titolo Paper Dragon. La vostra esperienza in studio di registrazione, quali le idee musicali che hanno poi realizzato e dato vita a questo nuovo disco a cui hanno partecipato come special guest personaggi davvero illustri della scena metal di casa nostra e non solo. Ma sì, guarda, la nostra seconda esperienza in studio. Rispetto alla prima c'è stato un grande cambiamento, si può anche sentire dai suoni, un po' dagli arrangiamenti, eccetera. Perché la prima volta siamo andati in studio praticamente inconsapevoli di quello che andavamo a fare, nel senso che siamo arrivati là con molte idee, e comunque la tempistica proprio dello studio non è così immediata, ecco, è un po' da capire. Soprattutto perché ti metti a fare magari 10 brani in una giornata e a un certo punto dici ma io cosa mi manca da fare? Cioè diventa una cosa un po' meccanica, quindi non è che prendi un brano, lo cominci dall'inizio, che anche perché chiaramente non si può fare come sessione, perché una volta che registri la batteria ci vuole ad esempio... Tutti i brani devono essere suonati, ecco, eccetera. Comunque dicevo, la seconda volta invece siamo arrivati là un pochino più preparati, un pochino più preparati, anche perché io a casa mia mi sono fatto un piccolo studio per mettere a punto qualche idea, ecco, per arrivare già là, insomma, con una specie di mezzo demo, ecco. Version dell'album, così da poter guardare qualche cosa di qualche soluzione differente, sicuramente, anche perché ne abbiamo trovate, come al solito, diverse da come le avevamo presentate, e questo è un punto positivo, vuol dire che insomma qualcosa di più buono c'era, evidentemente. E niente, per gli special guest invece direi che diresti? Non lo so, io ti davo una mano forte. Facciamo nomi, dai. Nomi, allora, primo nome Michele Luppi, è nostro amico, abbiamo suonato insieme un paio di volte con Vision Divine e adesso anche con Kid in Touch. Lui insomma ci ha aiutato in un brano, fa un duetto con Halle, un brano sul suo stile, molto hard rock, quindi ci sta bene. Ascolteremo più tardi questo brano. Tardi lo ascolteremo, molto esatto. Più tardi. L'altro ospite invece, che praticamente diciamo che è il nostro sogno, perché è un certo Michael Kisk, che canta in due brani, uno tutto lui e l'altro invece in duetto con Halle. E Halle anche lui è... si pesciava addosso ormai quando ha sentito la voce di Kiska assieme a lui. Si è segato, diciamo. E dopo, infatti, adesso. Infatti, è appiccicoso come pezzo. Non ho sentito, meno male. Vabbè. La prossima canzone per chi ci ascolta. Posto. La prossima canzone, visto che parlavamo di Michael Kiss, è proprio un pezzo dove canta Halle assieme a Michael Kiss. Si chiama Tears Against Your Smile. Troubles in your head. Never saw you. to be wrong. Took a look and faced the fresh outside. I remember you when I feel alone, but I'll never understand why. You didn't carry on. In studio ancora con i Trick or Treat, recensioni, quali le più interessanti e cosa dicono del vostro album nel bene e nel male? Rispetto al primo disco parla molto bene, soprattutto dicono che c'è meno influenza degli Hellumi, c'è più roba nostra, gli arrangiamenti sono più arricchiti, più maturità nell'esecuzione dei brani. Qualcuno dice ancora che somigliamo agli Hellumi, che li copiamo anzi, ma a me non sembra, anzi se mentre non me frega proprio ma sì, niente, dai. Ecco. Non deragliamo più. Poi, prossima track, vai. Prossima track. Ok, prossima track è Loser Song. È una canzone che ho scritto io. Mi sembrava giusto dirlo perché... No, non è vero. Autocitazionista. No, scherzo. No, in realtà volevo solo dire che abbiamo realizzato il video di questa canzone e si può trovare su YouTube, su un po' i nostri canali tipo Facebook, MySpace, insomma i link ci sono. E niente, è un video che parla di... Ma mi sembra, non lo so, di sparatorie, no? No, un video che parla di praticamente una presa in giro di un noto programma televisivo tanto in voga adesso, ma insomma questa quella lì, diciamo, quella, se andate a vedere il video vedrete la nostra scuola di pensiero, che non è propriamente, diciamo, quella scuola pensiero favorevole, di pensiero, ecco, di rocker, ecco. Vedete anche la nostra dignità che va a rotoli, altre parti. Vabbè. Però comunque è interessante. A favore del messaggio, pensate un po', quindi insomma. Allora, noi torniamo tra poco per la quarta parte di Rock Legends con i Trick or Treat. Voi restate sempre su Radio RCS.